Nel tempo libero ascolto sempre Radio 24. Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti, di Leonardo Manera e Daniele Ceva. Buongiorno, buon sabato pomeriggio a tutti. Siamo sempre qui, come sempre, alle 14.30, pronti a iniziare con la nostra trasmissione Avanzi di Manera con Leonardo Manera e Daniele Ceva. Allora, per chi non ci avesse mai ascoltato, vogliamo ripetere ancora una volta che noi ci occupiamo di notizie curiose, strane, che non conquistano mai le prime pagine dei giornali perché restano un po' confuse. Ma neanche le seconde, neanche o le terze. Seconde. O le terze. Ah, però vogliamo dire che sono tutte notizie vere, perché le nostre fonti sono giornali veri. Abbiamo il Corriere.it, abbiamo Il Giorno, abbiamo tante notizie vere che per lo più sono su quotidiani online, che però sono vere, non le inventiamo noi, è vero Ceva? Ma probabilmente le ha inventate qualcun altro. No, no, assolutamente sono notizie verissime e credibili, insomma vediamo. Adesso no, ma infatti la prima notizia qualcuna, di cui probabilmente si sono occupati anche altre persone, altre trasmissioni, riguarda un fatto di cui si è molto parlato in Iran, insomma. Sì, pian piano si sta aprendo l'Iran a un certo tipo di cultura che dà un po' più di libertà alle donne anche. Perché lei sa che in Iran, e credo anche in altri paesi del mondo islamico, le donne non potevano andare a vedere gli sport maschili. E non potevano fare tante altre cose, e non possono tuttora fare tante altre cose, mentre adesso ma possono andare. Ma lei con vedere la sua convivente, che rapporto ha? Lei la fa uscire? No, deve rimanere, deve rimanere in cantina, in lavanderia. Lei sa che io forse il più presente ricordo che ho di mia madre quando ero bambino, sì, è che io tornavo a casa dall'elementare, io andavo di pomeriggio, non so perché, andavo di pomeriggio all'elementare. Andavo in quelle speciali, per i bambini speciali. Erano a turni, la mattina, siccome c'era solo una scuola, di mattina andavano certi bambini, di pomeriggio gli altri. E io ricordo, uno di quelli che mi è rimasto più impresso è io che torno a casa e mia madre che prepara le frittelle di mele con la pastella. Ah, che bello. Quindi la mamma che cucina. Ha questa visione alla rata Tui, no? Quando mangia la ratatouille vengono in mente tutte queste cose belle del passato. Un bambino magari torna a casa, non trova la mamma che cucina le frittelle di mele e magari trova una merendina confezionata, buttata lì sul tavolo tristemente, con un po' di polvere sopra e scaduta anche. Perché lei sa che io sono stato con una ragazza che era soprannominata Fiesta Snack. Perché? Perché per andare a letto con lei non ci dovevo vedere più dalla fame. Non ci vedo più dalla fame. Eccola la mia figlia! Ma la notizia, questa è la mia vecchia battuta di repertorio, ma sempre ridere, bella, bellissima. Risate a go-go, risate matte, bellissima. Ma diamo la notizia. Qual è la notizia, caro Ceva? Allora, no, come è consumato che Ceva oggi? La vedo con delle occhiaie spaventose. No, voi non lo vedete, ma è un uomo distrutto, veramente. Allora, hanno la fortuna di non vedermi. Non vada con le descrizioni che potrebbero dar fastidio anche all'ascoltatore. Allora, delle occhiaie che arrivano al pomo d'Adamo. Allora, che vanno a coprire il pomo d'Adamo. In Iran, dica bene la R. Iran. Cade muro per donne che vogliono assistere a certi sport maschili. Infatti potranno assistere alla finale del campionato nazionale di basket. Ma no, la cosa che non ho capito è perché le donne possono andare a vedere il basket o la pallavolo, ma non possono per esempio vedere il calcio, il pugilato e il nuoto. Perché? Forse perché questi sport stimolano l'ormone femminile. Non lo so, ma anche forse il calcio è un po' più aggressivo. Il pugilato, vedi l'uomo che è troppo aggressivo. Il pugilato induce nella donna a fare sesso col pugile. Non lo so. Questo è veramente incredibile. Esatto, questo Beniamino. Mio figlio Beniamino. Che tra l'altro è figlio di un pugile, pare. No, è mio figlio Beniamino, io sono il padre assolutamente, e sono quasi certo. Allora, c'è uno sport femminile che invece induce in lei il desiderio appunto di fare sesso con una donna? Sì, la lotta nel fango. Lei sa che io per anni ho presentato il catch femminile in un locale qui a... No, lei ogni volta mi racconta cose nuove. Una volta mi ha detto che aveva presentato degli spogliarelli. Sì. Poi il catch femminile, catch esiste femminile ancora il catch femminile. Ma erano i primi anni 90 e mi ero anche innamorato di una che lo faceva, che poi si è fidanzata con un carrozziere. Aneddoti senza pretese. E questo di pretese ne avevo pochissime. Allora, prima di proseguire con la notizia, dopo diamo l'aneddoto senza pretese. Certo. Allora, sentiamo prima qualche ascoltatrice chiedendo loro un parere alle ascoltatrici se è bene per la donna uscire di casa, emanciparsi oppure dedicarsi solo alla famiglia. Vediamo. Pronto? Noi stiamo commentando questa notizia secondo la quale in Iran adesso le donne possono andare a vedere gli sport maschili. Sicuramente è un'ottima notizia. Ma secondo lei è giusto che la donna possa uscire di casa oppure deve rimanere ma in casa? Ma certo, che discorsi. No, non sarebbe meglio se si dedicasse esclusivamente al marito, alla famiglia, a cucinare, rammendare ma le calze? La libertà vale per tutti, l'importante è non danneggiare il prossimo. Sì, però le famiglie reggevano quando la donna stava in casa, si occupava dei figli, dei fornelli. Senta, il discorso è troppo lungo e complicato, io non posso, devo scappare veramente. Lei sta andando a lavorare? Sì, malissimo. La devo salutare. Lei lavora, dovrebbe stare in casa e dedicarsi solo. Devo salutare, veramente, mi dispiace. Pardon? Lei è favorevole o contrario a questa libertà femminile, che alcuni reputano eccessiva? Ma potrebbe essere una cosa buona. Ma lei da uomo non preferirebbe che sua moglie stesse a casa e si dedicasse solo a lei? No. Dica la verità, sia sincero. No. Lo sappiamo che tutti gli uomini la pensano così in fondo. Avete anche un figlio? No, sono tutti vicini, figli, è tutto normale. È suo figlio quello che sentiamo in lontananza? Mio nipote. Ah, e quindi lei non ha figli. Ma se lei dovesse avere un figlio, sarebbe contento che sua moglie si dedicasse solo? Sì, ho pure 78 anni. Va bene, vedete che le signore a cui abbiamo chiesto, la signora anche ci ha preso sul serio, quindi siamo molto credibili di questa cosa, siamo contenti. Diciamo un paio di battute sulle donne. Per esempio, gli uomini guardano le donne così come guardiamo le macchine. Tutti guardano le Ferrari, di tanto in tanto ci piace un furgoncino e tutti compriamo le Station Wagon. Come dire, alla fine... È un'amara verità. Come dire, alla fine vediamo la donna appariscente e pensiamo... E poi invece ci sposiamo con una Station Wagon che magari ha più lati positivi anche di una Ferrari, no? Lei condivide. Sì, la Station Wagon in effetti ha più lati forse. Diamo quest'altra notizia, in Turchia. Allora, questa piacerà a lei, che so che insomma ha un carattere anche discutibile. In Turchia, lui picchia la moglie e si fa male a una mano, donna condannata. Beh, mi sembra, no? Mi sembra logico e umano questa cosa qua. D'altronde, se lei è agli zigomi spigolosi... Va bene, la corte penale di Ankara ha deciso di condannare i due coniugi alla stessa pena, cioè una multa di 3.000 lire turche, poco più di 1.000 euro, sia a lui che ha picchiato lei, ma anche a lei che ha fatto gonfiare la mano di lui. Per fortuna in Italia da noi le cose vanno diversamente, ma il problema qual è in Italia? Che tante relazioni finiscono sui social. Finiscono sui social e tante iniziano anche sui social. Sì, e quindi qui cosa è successo? Che un marito, dopo che è stato lasciato dalla moglie, ha utilizzato Facebook per insultare la moglie e adesso rischia il carcere. Sì, perché chi insulta su Facebook rischia il carcere. Prima sembrava di no, ma il fatto qual è? Che comunque Facebook è un mezzo pubblico e quindi chi fa commenti negativi, chi insulta persone su Facebook rischia il carcere da 6 mesi a 3 anni. Proviamo, adesso la posso insultare su Facebook, poi vediamo com'è e poi dibattiamo in tribunale. Lei sa che fino a 2 anni c'è la sospensione della pena, poi si può essere destinati ai lavori socialmente utili, ma oltre i 3 anni si va in carcere, anche se si è incensurati. Quindi non c'è una condizionale oltre i 3 anni. Ci sono sempre problemi. Sempre sì, problemi nella vita. Però cosa succede, caro Ceva, quando ci si lascia? Ci sono i figli che si divide. Si divide figli. Per il figlio separato, sul cibo decide il giudice. Qual è la notizia di questo fatto che è avvenuto a Bergamo? Praticamente il padre teneva il figlio il fine settimana, sabato e domenica, la madre dal lunedì al venerdì. Ma il fatto qual è? Che la madre è vegana. Quindi al figlio dava cose solo vegetariane, niente derivati del latte, niente uova, animali. Niente, solo vegetariano. Allora il padre, quando l'ha saputo, ha cominciato a dare al figlio salsiccia e gorgonzola. Quindi lo prendevano per la gola, diciamo. E i due, marito e moglie, che già avevano litigato prima della separazione, poi si erano separati, hanno continuato a litigare anche dopo perché avevano visioni diverse sul nutrimento, diciamo così, del figlio. E sono andato ancora una volta in tribunale anche per questo motivo. Ha detto il giudice che una volta alla settimana la madre deve dargli carne e una volta invece nel fine settimana il padre non deve dargli troppa carne. Deve dargli una dieta vegana. Però a questo punto ci perde la donna. Ci perde la donna perché tiene di più il bambino. No, ma a parte quello lì, ma perché è costretta a cucinare della carne carne, che si sa che i vegetariani e i vegani sono anche infastiditi dal cucinarla, mentre al padre non cucinarlo non credo che gli procuri sì, così. Gli darà dell'insalata invece che dargli salsiccia e gorgonzola, esatto. Della gran salsiccia. Allora, a proposito di liti fra marito e moglie, prima dei nostri scherzi telefonici venuti male, una battuta su uomo e donna. Ogni volta che incontro un uomo mi chiedo: ma è davvero questo l'uomo che io voglio che i miei figli vedano una volta sì e l'altro no? Oggi la nostra curatrice si chiama Chiara Gala. No. Grazia Gala, che è molto bella, tra l'altro. L'ho visto, che ragazza carina. La vedo, sono senza occhiali, non la vedo benissimo, ma mi sembra. Ma Grazia molto Gala bella. È bellissima, proprio il sogno di ogni uomo. Ogni uomo vorrebbe fidanzarsi fisso con Grazia Gala, fare 3 figli con lei e poi separarsi e litigare e dar da mangiare a uno la carne e l'altro l'insalata. Allora, nostra rubrica scherzi telefonici venuti male. Scherzi telefonici venuti male. Pronto? Buongiorno signora, sono il presidente del consiglio, è Matteo Renzi. Siccome sono Matteo Renzi, il presidente del consiglio. Sono Matteo Renzi, presidente del consiglio. Stiamo cercando un nuovo candidato per il comune di Roma al posto di Marino. Ma certo che sì, tienimi presente, va bene? Possiamo sapere il suo nome? Ma no! Lei ha le esperienze politiche pregresse. Ciao a te, in bocca al lupo. È stato candidato in altri partiti. Raffaele? Pronto? Chi è Raffaele? Sì, sono Raffaele. Hai visto che ho fatto questo scherzo? Sono Raffaele, ti è piaciuto? E allora? E niente, volevo farti questo scherzo. Siccome ho capito. Raffaele, ci vediamo dopo al bar, ok? Vabbè, ma offri tu al bar. Questo non so se è venuto bene o male come scherzo. Una parte è venuta male perché lui ha capito che lei non era Renzi. Però poi quando gli ha detto... Ha pensato che io fossi Raffaele. E lui a un certo momento ci ha creduto. Ha smesso di credere quando lei gli ha detto che avrebbe pagato da bere. Quindi questo Raffaele è pure tirchio. Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti. Allora, siamo ancora qui in questo sabato pomeriggio con voi fino alle ore 15 e vi invitiamo sempre a scrivere, casomai voleste farci questo regalo, ad avanzidimanera@radio24.it. 24 è scritto in numero proprio, 24. Sì. Lei come si sente come salute, Ceva? bene, diciamo benone. Lei sa che i problemi fisici sono sempre dietro l'angolo. Vabbè. Acciacchi di ogni tipo. Cerco di non girare la... Io sto bene. Poi di colpo uno si trova con dei problemi anche gravi. Però perché lei ha introdotto questo discorso, tra l'altro, della salute, mettendomi in cattiva luce? Perché in Cina una ditta cinese ha creato un simulatore di morte che riproduce la sensazione di essere cremati. Qui, quando tu simuli l'esperienza di cremazione, arrivi a una temperatura di 40 gradi con dei raggi laser che ti colpiscono il corpo. Lei preferisce, adesso visto che non le resta ancora molto, preferisce essere cremato, tumulato o sepolto? Io vorrei essere cremato, come l'ho già detto anche e ho già detto in radio, prima di essere cremato vorrei essere imbottito di mais da popcorn. Ma lei sa che alcune persone dopo la morte già dentro la bara scoppiano? Perché sono piene di gas, per i gas corporali che sono rimasti all'interno. Quindi è stato proposto da un'altra ditta di fare delle bare trasparenti in modo che si possa vedere eventualmente il morto. L'esplosione. Pensi con l'esplosione del defunto quanta gente in più parteciperebbe ai funerali? Sì, perché sperano nell'esplosione. Bisognerebbe sapere quando. Per tirarci su abbiamo delle bellissime battute sui funerali. La gente ai funerali ha un'aria strana, spaesata, bisogna capirla. In realtà partecipa a una cosa di cui non capisce niente e l'unico che ci capirebbe qualcosa, combinazione, è morto. Questa è di Romano Bertola, scrittore pubblicitario torinese. Io ne ho una di Leo Longanesi, scrittore umorista, sono conosciutissimo. È così egocentrico che se va a un matrimonio vorrebbe essere la sposa, a un funerale il morto. E allora abbiamo fatto una telefonata per capire se le persone preferiscono essere cremate, sepolte o tumulate. Pronto? Lei cosa preferirebbe in caso di morte? Se muoio voglio essere seppellita. Secondo lei qual è il vantaggio di essere seppelliti appunto sottoterra invece di essere cremati o tumulati in un loculo? Io per esempio... Non mi piace essere cremata. Ma perché? È un'esperienza che non ha ancora fatto, quindi magari potrebbe essere più piacevole della sepoltura sottoterra, insomma. Non mi piace, no, glielo so dire, ma non mi piace. Quindi le piace l'idea che degli insetti, degli scarafaggi, degli animali di ogni tipo possano impadronirsi delle sue membra stanche, ormai diciamo in stato di decomposizione? Appunto. E invece la cremazione, cosa non le piace della cremazione? Non lo so, non mi trovo ancora in questa cosa, quindi non glielo so dire. Lei come sta? Sta bene. Per il momento tutto a posto? Sì, sì, grazie. Si controlli che non si sa mai cosa può succedere da un momento all'altro. No, non si preoccupi. Buona giornata. Grazie pure a lei. In salute, mi raccomando. Allora, siamo ancora qui perché tutto sommato questa ditta cinese ha avuto questa idea, insomma, che porta lavoro, tutto sommato, no? Ci sarà gente che lavora in questo settore. Sì. E allora, a proposito di lavoro, prima di salutarvi, vogliamo dirvi quali sono state stabilite dalla Cassazione le 7 caratteristiche per poter configurare il mobbing. Lei sa cos'è il mobbing? Sì, certo. Cos'è? Allora, praticamente non è neanche una tecnica, è un comportamento psicologico nei confronti dei dipendenti. Dei dipendenti in cui li si mette in qualche modo a disagio, in difficoltà, affinché siano loro stessi a rendersi conto che devono andarsene. Anziché licenziarli. E la persona che è sottoposta a mobbing che decide di andarsene. Però questa è una pratica, diciamo, penalmente anche perseguibile. Certo, lei lo sta facendo ormai da 19 puntate con me. Vediamo come si riconosce il vero mobbing. Le vessazioni devono avvenire sul luogo di lavoro. I contrasti e le mortificazioni devono durare per un periodo congruo, quindi non bastano 19 puntate, Ceva. Devono trattarsi di più azioni ostili. E quindi tarpare le ali. Poi ci deve essere il dislivello tra antagonisti. Non ridere ad una battuta mia, ad esempio. Con l'inferiorità manifesta del ricorrente. Perché la Cassazione ha fissato queste regole? Perché altrimenti tutti facevano ricorso per mobbing. Ah certo, bastava una minima offesa, un minimo atteggiamento che poteva essere preso così in maniera vede, questa è una delle parole, in maniera. Lei cosa metterebbe? Io direi, per esempio, spazi bianchi. Io direi bianchi. Che la sua rubrica, se io la denigro, che è le idee di Daniele Ceva, lei non può denunciarmi per mobbing perché non ci sono le altre caratteristiche. Voi sapete, prima di salutarvi, che Daniele Ceva ha questa rubrica, le idee di Daniele Ceva, dove propone idee per nuovi palinsesti televisivi. Mandiamo la sigla. Le idee di Daniele Ceva. Questa volta noi mettiamo questo reality, mandiamo a scuola, con la scuola in televisione, e facciamo compiti in classe sui binari. Cioè, quando arriva il treno. Quindi devono riconsegnare a tutti i costi. Quindi ci vedono queste file di banchi con gli studenti che fanno il compito in classe e il treno che sta arrivando dall'altra parte. Attenzione, perché poi c'è l'evoluzione, che è quella ancora più eccitante, che è compiti in classe sui binari ai tempi del fascismo. Che si sa. Perché quando c'era lui, i treni arrivavano in orario. Esatto. Allora finiamo con avanzi di poesia, cioè poesie non conosciute che noi vogliamo rendere note al grande pubblico. Bene. L'amore muore ogni giorno. Scusi, è cambiata però. Mentre stanco si trascina alba dopo alba nella foschia di una tragica e inutile farsa. Mentre del primo battito, dei primi occhi imploranti, resta un fragile, flebile ricordo, privo di ogni perché, di ogni dove, di ogni quando, cieco, appannato, polveroso. Così muore l'amore e sprofonda, precipita e si schianta sotto il peso dell'oblio, che annulla ogni residuo di splendore primigenio e annulla la speranza del domani nell'amaro pasto dell'oggi. L'amore muore ogni giorno. Ecco, questa era la vera esperienza di morte per chi l'ha ascoltata. Noi vogliamo sempre finire con un momento di allegria, quale quello di questo pomeriggio. Chi ringraziamo? Oggi direi prima di tutti ringraziamo Grazia Gala, donna molto bella. Scrivete per contattarla qui a Radio 24. Tra l'altro possiamo dare anche il suo numero di cellulare, sì. 338-729. Bellissima. Poi abbiamo Pietro Lacorte in regia, sempre un bel uomo anche lui. Secondo te piace Pietro Lacorte alle donne? Secondo me, tra lui e Grazia Gala c'è una liaison sentimentale. Una liaison in regia. Secondo me quando finiamo di registrare hanno un rapporto selvaggio qui in regia. Questo è veramente incredibile. Vedo delle manate sul vetro della regia. Con il nostro autore Marco Del Conte che guarda e commenta, mentre Pietro La Corte, grazie. E Carlo, scrive battute. Dà dei consigli. Poi c'è Daniele Ceva, che insomma forse rivedremo la settimana prossima, visto lo stato del suo viso, che è molto provato. E Leonardo Manera, che eventualmente verrà al mio funerale. Noi vi lasciamo con Marta Cagnola e Sabato del Villaggio. Grazie eventualmente per essere stati con noi e buon pomeriggio. Ciao, grazie. Ciao. E adesso